Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Facciamo il canto numero 35 alla pagina 27. Dio, amico mio. Dio, io cerco Dio, l'amico mio, che mi vuol bene come nel cuore. Sorride come una pecora all'ovile, forza, dammi la mano, andremo lontano io e te. O luce divina, aiutami tu, perché davvero non ne posso proprio più. È una vita che non faccio l'amore, e ho la parte che comincia a farmi male. Io guardo la TV dopo il canale 800 e così solo per te io m'accontento, ma poi per fortuna c'è il confessionale, tutti al numero 3. Don Faustino assolve proprio tutti i peccati, anche la colpa di mano, quindi assolve anche me. Insieme. Dio, io cerco Dio, amico mio, era un canto di giovani ferventi che ci inventammo in una nottata in cui eravamo persi nei fumi alcolici da tequila, io assieme ai fratelli Alemanno, fratello e sorella. Bevevamo tequila, mangiavamo pistacchi e scrivemmo questa canzone e ci sembrava fantastica. Era la rappresentazione di quello che oggi è una sorta di senso religioso che alla fine non dice niente e non riconosce nulla, ma dà una sorta di idea, di entità superiore a cui ci si può rifare nei momenti di debolezza, di sconforto, di bisogno di una donna, come nel caso del protagonista ragazzino che cercava Dio, la grazia di dargli una donna, che non è poi nemmeno lontano tanto dalla realtà. La gente fa i pellegrinaggi a Međugorje con i pullman misti per trovare marito e moglie, quindi abbastanza vicino alla realtà. Per porci la domanda oggi, cosa significa avere un senso religioso? Cos'è la religione oggi per voi? È questo? Scusami, mio Signore, ma per questa ragione ho deciso, cambio religione. Giovedì son animista, venerdì son zoroastriano, quando è sabato caldeo e domenica sciamano. Io mi sveglio che è mattino col plessario il pendolino, e dopo pranzo giù in ginocchio al voodoo ci butto un occhio. Verso sera leggo il tantra e mi bevo aloe vera, prendo il tram con le mosse delle danze pelle rosse, quando è notte su per giù prende sgozzo un caribù. Suono il femore, il batacchio, scopro l'ano e ci sputacchio con zia Carla, bevo assenzio, poi la brucio con l'incenso, poi frequento Padermete che mi attira col magnete, poi adoro il monolite che mi cura la gastrite. Ieri ho fatto ganga sera con la setta della pera, m'è venuto su cucucu, coco rosso e molto mosso, quando è l'alba canto al sole che mi cura il raffreddore. È chiaro, sì, con Riccardo e Francesca Alemanno eravamo un po' fatti di tequila e questo avevamo scritto, ma è molto lontano dalla realtà che vedete attorno. Oggi tutto è religione. Ieri ho fatto una trasmissione su come lasciare i cani in un pensionato quando si va in vacanza, sono tutti fuori atteggiamenti religiosi, atteggiamenti quasi di idolatria nei confronti degli animali. Agli animali vengono attribuiti sentimenti, modi d'essere, personalità, capacità di introspezione, come una volta si mettevano gli agnelli e i vitelli d'oro sugli altari, si adoravano, la stessa identica cosa. Mi sono arrivati accuse di iconoclastia, di apostasia, di eresia, minacce di morte e lapidazione solo per aver sdrammatizzato sul fatto che era stato catturato un cinghiale, catturato sparandogli addosso, essendo il cinghiale selvaggina, e nei giornali i titoli erano non si evita la morte del povero cinghiale, poteva essere salvato e messo in una riserva, in un momento particolare in cui i cinghiali scorrazzano davanti alla cupola di San Pietro. Parliamo di religione in un giorno molto particolare, ahimè in Italia il 71% delle persone intervistate dice essere cristiano, vagamente cristiano, cattolico, comunque si riconosce comunque in una sorta di religione che tradizionalmente è il perno della nostra civiltà negli ultimi almeno due millenni, capito? Quindi il giorno di San Pietro e Paolo, in cui il Papa deve andare a appoggiare il pallio, che è il simbolo del giogo pastorale sulle spalle dei cardinali, c'è un grosso personaggio del Vaticano, lo avete sentito nel notiziario, il cardinale australiano Pell, il primo arcivescovo di Melbourne, oggi con un ruolo importante nell'ambito della gerarchia ecclesiastica, viene accusato di pedofilia. Solo un'accusa, naturalmente va provata, però certo è un momento particolare, difficile, in cui anche l'intangibilità della religiosità, delle gerarchie ecclesiastiche, viene ogni giorno messa in precario equilibrio. Le persone che ascoltano cosa fanno? Hanno dei tentennamenti al loro sentore religioso? Penso che la religione significa anche, non so, seguire una dieta vegana, significa avere un particolare, fare il saluto al sole la mattina. Cioè, amiche dicono: ma io la mattina faccio il saluto al sole. Brava, saluta al sole, ti fa ciò con la manina e ti dice come stai, bene, va bene. Ma si pensava che l'essere civilizzati, appartenere alla contemporaneità, avere una vita essenzialmente ispirata a quelle che sono le regole, le evidenze della scienza, ci avesse un po' allontanato da questa cosa qua. Fermo restando che io credo nelle fate, credo nei folletti, credo negli elfi e credo nelle creature elementari. Se adesso vedessi apparire da me tutti i morti in fila della mia famiglia, delle ultime tre generazioni, direi: ciao, come state? Non direi una cosa che ho un'allucinazione. Detto questo, c'è posto per tutti. Ma voi come la pensate dal punto di vista della religione? Cosa significa oggi essere religiosi? È una circostanza politica e si impugna la religione per attaccare coloro che hanno una visione politica e sociale diversa dalla nostra. Improvvisamente ci si scopre tutti credenti, tutti ferventi. È una profonda convinzione, è un senso profondo del fatto che la realtà materiale, l'immanenza, così come si presenta, sia solo una grande apparenza. Il nostro scopo in questa avventura terrena è arrivare a una sorta di comunione con l'assoluto, per avere quello che è il vero premio, la vera vocazione di ogni essere umano, che è la vita eterna. Oppure pensate che basta semplicemente farsi il segno della croce, fare il rito al sole la mattina, recitare i mantra, fare posizioni yoga, fare il tantra yoga, che anche accoppiamenti selvaggi, serva comunque per sentirsi più umani o per sentirsi semplicemente più confortati nei momenti in cui l'umanità è sintomo di grande sconforto. 800 24 00 24, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Durante la meditazione la bocca è chiusa e forma un piccolo sorriso. La saliva va deglutita. Le mani assumono la posizione Wisdom Mudra e sono alzate all'altezza della fronte. Abbassandole tre volte al petto, lo studente ripete dentro di sé Namo Ayida Fat o Namo Amita Buddha o Grazie Dio. Ma forse grazie a Dio è meglio, si fa prima. Come dire: Dio amico mio, grazie a Dio. Grazie a Dio diciamo mille volte. Ah, grazie a Dio, non sono andato a schiantarmi contro il muro. Ah, grazie a Dio, mi sono lasciato con quella persona. Ah, grazie a Dio, oggi ho i soldi per fare la spesa. Ecco, diciamo già, l'esotismo ha sempre attirato l'Occidente. Le alternative alla tetragona religione tradizionale hanno sempre affascinato. Alternative di tutti i tipi, alternative magico-esoteriche, alternative orientaliste, alternative spiritiste, alternative razionaliste, quello che volete. Oggi c'è spazio per tutti e tutto comunque diventa un surrogato alla religione. Quello che non è riuscito a imporre come dogma alla religione tradizionale, ti faccio esempi banalissimi: non mangiate il pesce il venerdì. Io alla mia età veneranda, quando andavo a scuola, si raccontavano aneddoti del prete che il venerdì mise bocca al pesce e rimase fulminato. Questo ci dicevano le lezioni di dottrina. Oggi la gente fa operazioni di ascesi profonda semplicemente applicando delle diete. Cos'è oggi per voi la religione? Vi accorgete che avete atteggiamenti religiosi, magari proclamandovi agnostici? Stefano, buongiorno. Sì, salve. Prima di tutto, grazie per avermi richiamato. Vabbè, dovere, è il mio lavoro. Niente, io ho questa visione della religione che un pochettino la vedo come una sorta di outsourcing della spiritualità. Una persona può essere spirituale senza essere per forza religiosa. La religione è una sorta di struttura nella quale una persona mette fede, diciamo, per liberarsi del fardello di costruirsi da sola di una struttura, per liberarsi dal fardello e anche, secondo me, per ottundersi un pochettino nel lavoro fatto da qualcun altro. Stefano, chi si occupa di religione dice che le vie all'assoluto sono infinite, ognuno ha la sua. Diciamo che la religione ti dà già dei template, visto che usare, c'ha già il template per arrivare comunque al tuo scopo di rappresentazione. I template sono per persone che non hanno voglia o tempo o capacità di impegnarsi più di tanto. Le religioni, diciamo, popolari sono il template più semplice, in cui ognuno si trova dentro, ci sono dei margini di elasticità molto, molto larghi, e si trova il conforto che si ha pensando che esista una giustizia divina, un al di là, un premio, via dicendo. Poi esistono vie molto più particolari, le vie ascetiche, le vie realizzative, che sono percorsi personali che sempre non rispondono a delle tecniche, però, sai, non so bene cosa tu intenda di dire ho una visione religiosa della vita senza avere un metodo. La visione religiosa a un certo punto deve sfociare in un metodo, a meno che è la contemplazione assoluta, ma anche quello richiede comunque delle tecniche. Forse dovresti un po' chiarirti se semplicemente hai un'idea che possa esistere una trascendenza, poi non te ne frega più di tanto come la maggior parte delle persone, o pensi che in qualche maniera tu debba impiegare il tuo tempo vitale per arrivare a quel tipo di trascendenza? Qual è la tua scelta? Allora, secondo me il fine di un uomo è soddisfare la propria curiosità. Questa è la mia visione personale. E tra le tante cose, la parte più divertente è mettersi sotto, farsi sempre delle domande, cercare di darsi delle risposte, ma queste risposte devono sempre essere aperte al dubbio, devono essere sempre non trascendenti ma immanenti. E questo si chiama metodo scientifico. Esattamente. Va benissimo, è una maniera molto, molto legata alla contemporaneità di valutare il mondo attraverso il metodo scientifico. La religione è un'altra cosa, la religione alla fine richiede un atto di fede, tu devi comunque credere in qualcosa che non hai possibilità di avere, di cui non hai possibilità di avere prove empiriche. Roberto, buongiorno. Buongiorno, io sono di religione ebraica e mi stupisco a volte di sentire tutte queste storie sulla religione. Per me, per noi voglio dire, ma dico per me, mia esperienza personale, è molto semplice. L'ebraismo ti insegna a fare del bene, a dover migliorare il mondo. Si chiama in ebraico Tikkun Olam. Ma tutte le religioni più o meno dicono questo, però. Sì. Nessuna religione dice bisogna fare del male, a meno che sia il satanismo inteso per religione. No, è vero. Però noi cerchiamo di farlo nella nostra contemporaneità, nella realtà, ed è l'unica, una delle poche religioni, credo, che non cerca di convertire gli altri, ma che ci pone come, ci fa fare un insegnamento. E credo che la tradizione per noi sia molto importante. Ah, questo è chiaro. Poi nell'ambito dell'alveo di ogni filone religioso, se lei, Roberto, è profondamente, sinceramente praticante della sua religione, va in perfetta buona fede, questa è la sua visione. La maggior parte degli esseri umani, però, e questo me ne darà atto, si copre di una parvenza di comportamento religioso. Noi in questo siamo maestri, noi diciamo appartenenti al mondo cattolico, quando poi in realtà non corrisponde a una pratica, sono solo parole che si dicono. Va bene qualsiasi religione purché ci sia una pratica reale, concreta, che questa apertura e compassione nei confronti del mondo poi si concretizza in qualcosa di concreto, in una pratica, se no sono solo parole. Tutte le religioni dicono che bello, dobbiamo essere buoni, bravi, voler bene agli altri. Nessuna religione in sé ha dei criteri così distruttivi come poi in realtà le religioni fanno quando si applicano come prassi. Le religioni sono state la causa delle peggiori guerre, dei peggiori stermini, delle peggiori abomini dell'umanità, sono state fatte sempre in nome di una religione. Questo è il grande problema. Ma noi oggi voglio fare un passo laterale. ho detto che, se non me lo dimentico, che oggi avevamo sottoposto ai ragazzi del nostro master in Radio New Media Management e Content della Business School del Sole 24 Ore il tema religione, proprio perché alla fine io faccio, sembra quello che fai tutorial di religione, io non ne so niente, sono l'ultimo delle persone che può parlare di religione, rispondo alle domande e pongo le curiosità. Mi piace sapere come dei ragazzi che saranno iscritti a un master della radio, che possono parlare di tutto, di cui non sappiamo esattamente qual è la cognizione di un senso vagamente religioso della vita, rispondono alla domanda: che ne pensate alla religione? Frigo vuoto significa cinque ragazzi fuori sede che parlano fra di loro di tutto e parlano anche di religione. I ragazzi di questa puntata sono Grazia, Enrica, Stefano, Giulia e Massimiliano, che guarda caso parlano di religione. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Ma che cavolo è? È Anna. Anna? Che sta facendo? I gargarismi? No, medita. Medita che? Come lavarsi i denti? Meditazione buddista, scema. Ma da quando in qua Anna è buddista? Dal viaggio in Thailandia, a quanto pare. Ah, dall'altro ieri, quindi. Un percorso di fede lungo e profondo. E se fosse andata in India sarebbe tornata induista, allora. Diamole tempo, magari stavolta ci crede davvero. Ma se non se ne perde una di moda, non ti ricordi l'anno scorso? Si è fatta convincere ad adottare un macaco a distanza. Fatemi sentire. Ancora. Anna, ma che combini con sta tunica? Sembri una detenuta americana. Ma chi? Io? L'arancione è il colore dell'energia cosmica. Ma ragazzi, che è sta puzza? Poveri e tristi amiche, questa tunica è una chesa e questa puzza, come la chiami tu, è incenso di radice di sandalo. Sì, sandalo usato più che altro, stai appestando la casa. Che palle, mi fate meditare in santa pace, lasciatemi sola. Certo, certo, scusaci, ti lasciamo ai tuoi mantra, hai ragione, e poi ti ci vorrà tempo. Certo, Annina, dovendoli ripetere 108 volte al giorno. Eh sì, poi all'alba, al pomeriggio e anche alla sera. Cosa? Ma i tuoi amici con la tunica non te lo hanno spiegato? Ma no, ma basta recitarlo con convinzione. Ma scherzi, devi recitarlo sempre. Quando mangi, quando dormi, quando ti lavi i denti. Se non lo fai, sprofonderai nei luoghi fisici e mentali della sofferenza del Naraka, l'inferno buddista. Finirai in mezzo ad esseri coperti di sangue di pus. Non ci credo. Fa come vuoi. Noi stiamo andando all'inaugurazione estiva del Biblos con open bar di G7 sfilata con modelli. E ci viene pure Christian. No. Vabbè, ci penso io a Christian. Non ti preoccupare, la tua devozione viene prima. Sì? Christian! Arriviamo. Allora, ciao ciao Annina. Noi andiamo. Buona meditazione. No, no, no, aspettate, aspettate. Arrivo. Qual è il nome del locale? In fondo è una sintesi su una chiave trasposta su temi diversi, quello che in realtà è per tutti, una parvenza esteriore di culto, di pratica, che in fondo tranquillizza e socialmente gratifica, poi in realtà si fanno sempre dei compromessi. Accade nel normale, sempre accaduto, forme di culto condivise, accade in queste forme alternative. La meditazione buddista sì, ma alla fine preferisci andare a qualcosa che ti faccia piacere, ti gratifichi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Sì, spenga la radio però, se no. Sì, no, non si aspetta. C'è un mistico alone di eco. Sì. Gianluca, buongiorno. Allora, io faccio mie le parole, i concetti, le idee, anche se non ho niente da condividere a livello filosofico, con Norberto Bobbio, che diceva: non sono né ateo né agnostico, sono avvolto nel mistero, più o meno dicevo. Sì, che non vuol dire assolutamente una mazza, perché avvolto nel mistero. Sì, vabbè, sono quelle frasi che si tramandano alla storia. Perché nel mistero cosa nel mistero, no? Nel mistero è quello che ci avvolge, quello che non conosciamo. Cioè, solo un folle o uno che poverino ha problemi cognitivi pensa di non essere avvolto nel mistero e avere solo certezze. È la base per ogni filosofo, essere avvolto nel mistero. Sì, vabbè. Ma anche per ogni essere umano. No, ma io lo faccio questo discorso un po' in contrapposizione, siccome sono un fedele ascoltatore di Radio 24, ma ogni tanto vado a sconfinare anche in Radio Maria. Vabbè. E loro hanno delle certezze assolute in tutto, da Međugorje a Gesù Cristo, in tutto. Ma a questo quindi serve la religione, il culto, i culti, diciamo, le religioni sì, popolari, a questo serve. Fanatismo, no, come ma... gli indiani Apache che credevano nel... Diciamo, è una fase dell'umanità che persiste, possiamo oggi considerarla arcaica, ma è necessario che le persone vadano a fare un pellegrinaggio e pensino che la Madonna appaia ore come se fosse il palinsesto televisivo che ogni tanto, o della radio, che ogni tanto c'è il traffico. La Madonna è come le informazioni del traffico, a quell'ora vi dà le informazioni. E se qualcuno piace crederlo, io non sarei nemmeno... non avrei un atteggiamento intellettualistico o di quello che ha capito tutto. Alla gente, se questo dà conforto, è sempre esistito per dare conforto, è stato creato per dare conforto, che poi possa esserci l'idea che in realtà si verifichi lì qualcosa di soprannaturale, è totalmente indifferente se questo è o non è, questo non cambia la vita a nessuno. Chi vuole crederci va a Medjugorje e sta lì con l'orologio in mano, guarda la Madonna o il Signore che vedeva il sole con le visioni che ci ha scritto un giorno e via dicendo. Chi pensa che questo sia soltanto un appagamento consolatorio del mondo pensa ad altre cose, riflette. L'importante è che si usi la nostra capacità umana e avere un cervello elaborato per riflettere. Ci fermiamo e ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Questo santone riusciva a catturare queste prede, perché in questo caso si tratta di prede, attraverso questo meccanismo dello scambio di forze. Lui chiamava l'atto sessuale scambio di forze, nel senso che lui nel suo modo... Ragazzi, ma state sentendo? Sì, già sentito, solita storia, un altro santone che prometteva di potere tutto. Ma sì, appunto, che ce frega, l'ho sentita pure io già ieri sta notizia. Spegni sto telegiornale o cambia canale, per favore. No, dai, aspetta, ma poi dico io, che può promettere uno con quella faccia da ladro di polli? Di farti finire in galera? Promette di farti riappacificare col tuo io interiore e di entrare in contatto con tutti gli esseri animati e inanimati che abitano il pianeta. E quindi sa farmi entrare in sintonia con la lavatrice? Ma, e che poi come si chiama questa setta? Ma controlla su Google figli della luce o qualcosa del genere. Ma quale figli della luce? Figli del sole. E chi sono i Teletubbies? E non dire minchiate, semplicemente ritengono che il sole sia il loro unico padre, che radia di luce e vita a tutte le creature dell'universo, compresa la Terra. Ah, e quindi ci sarà di sicuro di mezzo l'energia positiva, quella negativa, la luce, le tenebre. Certo, il capo spirituale è capace di concentrare l'energia cosmica e di passarla ai seguaci. Ah, ti vedo preparato, eh? Quando si tratta di cazzate sei sempre competente, Max. Harry, non essere superficiale. Se ci sono persone che aderiscono a queste sette, qualche beneficio devono pure averlo, no? Mica sono tutti pazzi masochisti. Pazzi non so, ma dimmi te, se una ragazza normale può credere che facendo sesso con il capo della setta riceve un passaggio di energia cosmica. Ah, e allora è di questo che si tratta? Solo di questo. È certo che dopo ti senti meglio. E dai, Harry, poi scusa, gli adepti maschi allora che vantaggi hanno? Se ne stanno lì a guardare il passaggio di energia cosmica tra il capo e le adepte? E basta, magari chi aderisce ci crede e si sente parte di qualcosa. Sì, parte di un'orgia. Il capo, dopo aver purificato per bene le adepte, prometteva ai maschi più meritevoli di partecipare alla catena cosmica del sole. Ma quale catena cosmica, va? Scusa, hai ragione, il trenino cosmico. Ah, ecco perché hanno scoperto che erano tantissimi i giovani di Milano che ne facevano parte. E sono pure riconoscibili. Ah, sì? Cos'hanno, le uniformi come i detenuti? No, guarda la foto, un finto anello in argento con l'icona del sole incisa. Vabbè, è un anello comune. Beh, comune non direi proprio, un pataccone così. Però in effetti mi sembra di averlo già visto. Ma Max, è quello che hai buttato stamattina? Ma non ricordo, ho buttato tante di quelle cose. Figurati se mi ricordo di aver buttato un anello. Sì, sì, quello lì. Hai detto che ti ricordava troppo la tua ex. Pervertito! Certo, chissà perché alla fine, per facezia, per cruda notizia di cronaca caduta proprio il giorno di San Pietro e Paolo, dentro ogni religione c'è sempre un trenino nascosto, c'è sempre una spada di fuoco, c'è sempre uomo-donna. Devo dire che Carlo Verdone ha immortalato quello che è un principio di discernimento universale su alcuni sensi che può avere il culto religioso, ma io non disprezzerei nemmeno tanto. Fa un po' ridere oggi gli adoratori del sole, al di fuori del contesto in cui grandi civiltà sono sviluppate, hanno fatto cose immense, pensando che dietro al sole si nascondesse una divinità, ma la divinità molte volte è una metafora per raccontare altre cose. Può essere, troveremo maniera anche di adorare il sacro buco nero semplicemente passandoci attraverso la fisica e non passandoci attraverso una pratica religiosa. Mohamed, buongiorno. Buongiorno, un piacere parlare oggi in questo argomento che per me è fondamentale. Negegli ultimi anni ho fatto osservazioni per capire proprio cos'è la religione. Cioè lei è un religioso? Io sono credente con una fede profonda. Ma la applica anche nella pratica quotidiana la fede? Come no? Sono musulmano, faccio le preghiere, faccio tutte le cerimonie, che è una cosa che vi farà meravigliare. Tra l'altro rispondo magari dopo anche per una domanda che ha fatto lei sui pesci, perché non si mangiano il pesce, o la provenienza, perché non si mangia pesce a sabato. Anche questa... No, il venerdì era per noi una volta, ma non ci pensa più, nessuno ci fa più caso. Comunque questa fa parte anche... No, venerdì si mangiava, si mangiava il pesce, venerdì pesce, ecco, non carne, era questa la cosa. Esatto, il pesce, il pesce proprio perché è legato a una storia, come la quaresima, perché si fa digiuno per 40 giorni o perché si fa il ramadan. Sì, ma questo va tutto bene, Mohamed, va bene, ho capito, va bene, perché è un punto di riferimento in una religione, è giusto sia così, deve dire che è così, perché non ci può essere dubbio su questo, se no non è pratica religiosa, si comincia a dire è tutta un'invenzione degli uomini, non sono un religioso. La scelta religiosa secondo me è una scelta fondamentale. Se lei in buona fede e in coscienza dice per me la religione è la vita, ma fortunato lei, è un passo importante, è così, e tutto questo deve essere non più una realtà fantastica o storica, ma la realtà, è così, no? Sì, allora per me è una cosa che volevo indicare per inizio, che la religione è legata a delle tipologie, delle persone che sono credenti, quindi le persone credenti o non credenti, era la religione relativa a quelli credenti. La seconda cosa, cos'è la religione? È una domanda che ha fatto il tribunale un po' tanti e tutti. Comunque la religione è come il metodo, il registro. Tornando all'umano, l'umano stesso non può essere un metodo di conservazione. Perché? Tornando da Adamo, dall'inizio di quello che da parte tanti... Sì, ma non mi faccia, scusi, da lezione teologica, non ne ho bisogno in questo momento, non è richiesta. Adamo, va bene, lei ha detto una cosa giusta, rispetto all'ascoltatore c'ha prima di una visione religiosa personalistica, lei dice la religione no, è questo, è uno schema, lei ha detto giustamente, è un software che si trasmette di generazione in generazione, perché la pratica sia costante, perché la via d'accesso al sacro, all'assoluto, alla tranquillità, alla serenità, al proprio io interiore, ai padri fondatori, a Dio che sta in cielo, desse seguire un metodo, se no non è, la religione è anche sacrificio, gioioso sacrificio, ma impegno, pratica quotidiana. Si fa presto a dire io sono religioso, c'ho il crocifisso, c'ho la mezzaluna, c'ho la stella, via dicendo, e poi nella pratica non esserlo. Se in buona fede pensa di esserlo, fortunato lei, segue una strada rispetto ad essere avvolti nel dubbio e almeno avvolto nella certezza, sta meglio di me. Fabio, buongiorno. Fabio. Pronto? Sì, l'ascolto. Pronto? Ciao, buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente dire che la mia impressione, la mia sensazione, il mio sentimento religioso oggigiorno è riferibile alla natura. Cerco di spiegarmi meglio. Io credo che oggigiorno non sia più la mia educazione cattolica a impormi di andare in chiesa la domenica, eccetera. E cos'è invece? Però questa sensibilità che abbiamo maturato nei secoli e soprattutto negli ultimi decenni, e questa sensibilità verso i temi naturalisti. Vabbè, lei è un eco religioso, per la religione è rispettare la natura, queste cose. Sì, non è una religione, è una pratica di rispetto del paesaggio, di rispetto delle creature animali, via dicendo. Religione è altra cosa. Possiamo anche far finta che è religione, ma allora religione è anche fare la dieta mediterranea. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. È difficile in pochi secondi esprimere in quello in cui io credo. Io credo che esista un Dio inconoscibile che nei vari tempi, in memory, si è manifestato a seconda dei tempi tramite delle manifestazioni, noi le chiamiamo manifestazioni di Dio, cioè i vari messaggeri da prima di degli Gesù, avatar, cioè, degli avatar che scendono sulla terra. Degli avatar, di tempo in tempo. Che cosa voglio dire? Che non possiamo parlare di religioni, in realtà credo che se la religione sia una, quella di Dio, sono gli uomini, tutti d'accordo, che lei crede che esista una sola grande religione assoluta che si manifesta a seconda delle circostanze storiche? A seconda dei tempi, anche una maniera di credere. Un universitario non dice il mio maestro di elementare era un cretino, diceva cose sbagliate, cioè accetta i nuovi insegnamenti, cioè ogni epoca questa essenza inconoscibile ha mandato sulla terra dei maestri, che parlavano in nome suo. Vabbè, questo è un filone, lo dicono in tanti, tutta la teosofia è basata su questo, tutti i ripensamenti quando la religione è stata in qualche maniera contaminata con la scienza dicono questo. Ma no, allora le religioni sono soltanto qualcosa che si racconta per le persone semplici, i veri illuminati sanno che c'è un solo assoluto che si manifesta in varie maniere. È un'altra maniera per raccontarselo, ognuno se la racconta come vuole, noi ce la raccontiamo tra un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Minchia, 150 euro l'aereo, ma sono pazzi. Aereo, ma dove devi andare? Devi lavorare. Lo so, ma mi tocca scendere a Palermo. Per fare? Il 14 luglio si avvicina. Ah, cioè anche a Palermo festeggiate la presa della Bastiglia? Ma quale presa della Bastiglia? Quando si avvicina la festa di Santa Rosalia, la tradizione chiama e il tagione corre. Mica ci vado per pregare. È una scusa per andare a trovare la mia famiglia che ci tiene e i miei amici. E poi comunque, sai quanti eventi organizzano proprio per Santa Rosalia? Ci vanno i migliori cantanti di tutta Italia. Ma sì, sì, Amedeo Minghi o Jimmy Fontana. Sì, Max, già ti immagino sotto il palco a cantare il mondo. Non sottete, a Santuzza non si tocca. Lo sai quanti fanno la chianata per andare a pregare? La chianata? Ma che è? Street food di palermitano? Tipo una chianata con le cipolle? La chianata è pellegrinaggio alla santa. Da noi la fede è una cosa seria, soprattutto da quando Santa Rosalia ha salvato Palermo dalla peste. Sì, certo, ma sei appena detto che ci vuoi per farti le vasche con gli amici tuoi. Se per una volta il pellegrinaggio lo salti, che fa? Ti scomunicano? Questo mai! Non tradisco Santuzza. Dai, Eri, però tu non fare la superiore. Tu a Catania non sei mai andata alla processione di Sant'Agata? Io? Ma va, prendo assolutamente le distanze da questi festeggiamenti meramente folcloristici, pacchiani e preistorici. Mi limito ad osservare con distacco i miei concittadini invasati che... certo, con quattro bancarelle con lo zucchero filato, ovvio che ti limiti ad osservare con distacco. Arrevao. Si dice arrevò, semmai. Chi sei, brasiliana? A Catania si dice così. Vai tu da Santa Rosalia e accendi un cero che magari intercede per te. Eppure se fosse... Ah, lo senti! Qua ti volevo. Allora non ci vai solo per la famiglia e gli amici, ci vai anche per chiedere i favori alla Santuzza. E che fa? Mentre ci sono io la vado a fare un saluto, piccolo piccolo. Al solito, fai il milanesotto emancipato e poi... Senti, almeno la nostra santa la grazia la fa veramente. Sì, come no? Quest'anno non vi ha fatto finire in Serie B. La grazia l'ha fatta a noi. Ma che c'entra il calcio? Io parlavo di cose serie, guarda qua. Secondo te come lo prendevo 30 in marketing strategico senza aver aperto libro? Si dice culo, o peggio, visto che hai copiato, direi paraculaggine. Max, ma davvero hai chiesto a Santa Rosalia di farti passare l'esame? E allora? Almeno la Santuzza sa come operare. Mica come quella inutile statuina catanese. Inutile? Se proprio lo vuoi sapere, Sant'Agata mi ha fatto vincere la borsa di studio che mi permette di vivere a Milano. Ah, ma sentitela, perché mo tu hai pregato a Sant'Agata. Io no, ma mia zia Agata, devotissima, sì, Ma qual è devozione? Si chiama raccomandazione. Io? Ma se tu ti vanti di conoscere questo e quell'altro che puoi arrivare a chiunque, ora si scopre che era una copertura per Santa Rosalia. Ma no, basta, lasciamo perdere, vi prego. Manca solo che scopro che avete i santini pure nel portafoglio. No, ma quali santini? Max, compra questo cavolo di biglietto per Palermo prima che salga il prezzo. E a proposito, stasera mi mangerei quelli arancini che mi ha portato tua mamma. Sono freschi freschi. Arancine, grazie, si chiamano arancine. Arancini, arancini. In Italia si chiamano arancini, provinciale. Arancine. Arancini. Arancine. Beh, sono state fatte diete, concili, dispute teologiche sul sesso degli angeli. Il devoto di Sant'Agata e Santa Rosalia si contrappongono sul genere delle arancine. Sono arancine o arancini? Ma una volta discussi un'amica mia su questo. Non mi ricordo nemmeno qual era la soluzione. Ricordo che sono grazie a Rica, Stefano, Giulia e Massimiliano che si sono impegnati in questa sitcom Sfrigo Vuoto, sotto la direzione di Fabrizio Intonti, direzione anche aiuto maieutico, ma sono ragazzi che fino a qualche mese fa non sapevano cosa fosse la radio. Oggi comunque riescono a esprimersi radiofonicamente. Sono, diciamo, la sintesi e anche l'esito di quello che in fondo è stato sempre il dibattito sulla religione nel nostro paese. Molto campanilismo, molta contrapposizione, molta superficialità, molta superficie, molta ipocrisia e molto pensare, ma in fondo proviamo anche con la religione. Non si sa mai. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo solo fare un piccolo intervento da ateo convinto. Va bene. Se ci togliamo dalle palle l'idea della vita eterna, accettiamo serenamente che quando moriamo, moriamo, e che forse è anche meglio, perché una vita eterna deve essere di una noia. Lo puoi porre a tutti, questa è una sua scelta, se no diventa lei una sorta di pregiudizio laicistico. Lei dice: per me finiamo con la morte biologica, e va bene, tranquillo, va bene. Ma non è che lo puoi porre a tutti. Vedi, c'è la mano di Dio che l'ha segata, gli ha fatto cadere la telefonata, si faccia una ragione. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno, speriamo che l'anatema divino non colpisca la telefonata come Maurizio precedente. Gli ha dato subito modo di avere il brivido della scomparsa. Adesso siamo lì. Ecco, abbiamo avuto una prova. Ed io volevo citare indegnamente Quando è moda è moda, la canzone bellissima di Gaber, solo che oggi le mode sono tante, religiose, da quelle alimentari a quelle di vari costumi, che poi sottolineo vanno un po' a soddisfare quelle piccole nevrosi che una società confusa ha, quindi la nevrosi del dover mangiare solo certi cibi, del presumere che siano più o meno sani, che siano doverosi. Ma io penso non è la stessa cosa che pensare che certi cibi siano tabù e altri si possano mangiare. Noi, la religione è basata su tutta una serie di regole, regole che hanno un senso probabilmente per la pratica religiosa. Chi non mangia i gamberetti, e chi non mangia la carne di maiale, chi non mangia niente, chi non mangia i prodotti con il glutine, chi non mangia, cioè sono tutte le cose che ci si impone perché ci sia la segnatura fisica che facciamo qualcosa, che abbia un senso, dare un senso a qualcosa. Mi viene difficile pensare che possa esistere un essere con il ditone che ci punta il dito contro: hai mangiato il pesce, hai mangiato l'animale con l'unghia spezzata, hai fatto qualcosa che a me offende. Ma se ci fosse mai un Dio, non dovrebbe mai offendersi, perché essendo Dio dovrebbe essere con una capacità di comprendere tutte le piccolezze di un essere umano, appunto, senza religione e senza Dio. Alla prossima.